c'è, sì, come avevamo detto ieri, c'è Rosario Marcianò, l'esperto sulle scie chimiche. Insomma, ieri ho fatto un po' di, diciamo, un po' di pubblicità su Facebook, sono venuti fuori un casino di commenti, quindi bene, bene, mi fa piacere. Sì, ma chi è lui? Si chiama... non tutti magari sanno cosa fa. Diciamo, è il responsabile di Tanker Enemy, che è un il sito più... sì, Tanker Enemy si chiama, è il sito più, diciamo, fare più cliccati sulle quelle notizie appunto un po' scomode che in giro se ne parla poco, oppure... un Wikileaks locale. Un Wikileaks locale, esatto, e niente, adesso gli... io ho sentito, ho visto delle cose ieri sera, adesso credimi se voi, io ho fatto fatica ad addormentarmi perché dopo un link tira l'altro, una cosa con l'altra, ma robe incredibili. Ed è così, la nostra bella basettina, anzi qui bisognerebbe metterci un'altra basettina che adesso poi andiamo a preparare. Oh, però fai un po' di introduzione, dai. Dunque, come abbiamo detto, signori, mi fa piacere che molti di voi hanno scritto, sono curiosi, vogliono sapere, come noi vi abbiamo sempre detto, vogliamo informare, noi non daremo giudizi, non diremo è giusto o sbagliato, noi abbiamo piacere che parli chi almeno è informato e ha studiato la materia, è giusto, Gabriele? Come no? Praticamente, signori, detto come va detta, abbiamo al telefono Rosario Marcianò. Pronto? Sono tutti. Pronto, ciao Rosario, ciao. Allora, grazie per avermi chiamato. Grazie a te, Rosario, grazie per la tua disponibilità. Comincia a illuminarci su questa cosa molto particolare di cui qualche giorno fa abbiamo accennato un qualcosa. Allora, io le definirei queste famose famigerate scie chimiche o chemtrails, le definirei più correttamente geoingegneria clandestina. Ah, noi sappiamo che da diversi anni si parla di geoingegneria a livello di progetto, quindi a livello di proposte di operazioni di aerosol in bassa ed alta atmosfera, mentre la realtà è che questo che vengono spacciati per progetti di dispersione di particolato di zolfo o particolato di vetro o particolato di alluminio o altri metalli con la scusa della limitazione degli effetti dell'effetto serra da CO2 sono in realtà operazioni in corso da diversi anni. Ecco, diciamo che tu praticamente stai studiando questi fenomeni dal 2005, giusto Rosario? Sì, da quando mi sono avveduto della comparsa di questi fenomeni sulla città di Sanremo, però c'è da dire che in Italia le sperimentazioni sono iniziate sulla metà degli anni 90 dello scorso secolo e sicuramente hanno avuto un impatto negativo sul territorio in quanto si sono intensificate a partire dal 2002, anno in cui fu firmato un accordo che venne chiamato Piano Dettagliato Accordo Italia-USA sui cambiamenti climatici, che fu firmato dall'allora Presidente del Consiglio Berlusconi con il Presidente Bush Junior, e questo piano di modifica del clima implica la dispersione di particolato in atmosfera ufficialmente per lo studio dei fenomeni climatici e per sottoporre l'ambiente e alcune zone d'Italia a situazioni estreme simili a eventuali cambiamenti climatici. Cioè, quindi praticamente da quello che ho visto anche io su internet si è fatto un accordo fra gli Stati Uniti e l'Italia, e in questo accordo praticamente gli Stati Uniti potevano fare delle, diciamo così, delle prove sul nostro territorio con gli aerei, è giusto? Esatto, è proprio così. Perfetto, guarda, ti faccio una domanda al volo, così stringiamo, perché la prima domanda che tutti quanti, ovviamente gli scettici, ma è giusto che sia così perché bisogna essere esaurienti, sì, è che dicono, cioè molti dicono che queste scie sono la normale condensa che fanno gli aerei, cioè praticamente lo scarico dovuto al freddo che è a meno 40 gradi, però a livello scientifico, da quello che ho letto, non è possibile questa cosa. Intanto bisogna dire che il fenomeno della condensazione è un fenomeno, almeno alle nostre latitudini, estremamente raro, quindi con una percentuale di incidenza non superiore al 3%. Poi bisogna anche tener conto che queste scie cosiddette di condensa, spacciate per tali, fino a 15 anni fa sull'Italia si vedevano molto raramente, si distingueva una piccola scia magari nel periodo più freddo alla sera, al tramonto, in lontananza, non si distingueva l'aereo, diciamo che per essere estremamente sicuri di quello che si dice basta osservare. Sì. In effetti, se noi osserviamo un aereo e lo distinguiamo nei dettagli e notiamo che questo aereo rilascia una scia, che sia persistente o meno, all'interno di una nube bassa, cosiddetti cumuli da bel tempo, che stanzia a quote massime di 2000 metri, 2300, significa che questa scia non è una scia di condensazione, perché a quella quota siamo ben al di sopra delle temperature idonee per la formazione di una qualsiasi scia di condensazione. Perciò noi... ci stanno prendendo per i fondelli, tant'è che la questione delle scie di condensazione viene inserita adesso sui libri scolastici, mentre prima non era contemplata. Cioè, stanno manipolando anche la storia, quindi. Sulle enciclopedie tipo la Motta, la Treccani, degli anni 60 e 70 non esistevano, mentre adesso si parla di scie di condensazione anche nei bagni delle scuole. Quindi evidentemente cercano di pararsi il posteriore con delle affermazioni che si basano su storie inventate di sana pianta per poter evidentemente coprire quello che stanno facendo. Perciò Rosario, adesso facendo un breve riepilogo, in pratica questi aerei rilascerebbero queste sostanze che tu hai nominato, che non ricordo neanche più come si chiamano. Ci arriviamo. Ok, rilasciano queste sostanze che creerebbero una situazione tale da creare poi nuvole o a rovescio magari dissolvere le nuvole. Bravo, allora si tratta più specificamente di cloud seeding o di cloud seeding igroscopico, ovvero in talune situazioni si opera della inseminazione delle nubi e delle perturbazioni per incentivarne la violenza, quindi per aumentare le precipitazioni, sì. Sia in quantità che in violenza, ripeto. In altri casi, invece, per tutelare alcune zone di interesse militare, perché come diceva recentemente il generale Fabio Mini, i radar di ultima generazione con le nubi naturali sono ciechi, allora le perturbazioni o le nuvole da bel tempo vengono pedissequamente distrutte affinché sia possibile far funzionare i radar in banda KA, quindi nel range delle microonde. Faccio un esempio come il radar MUOS, che sta per essere installato a Niscemi, che funziona su questo principio. Il discorso è che se noi vogliamo per esempio far volare un drone e lo vogliamo far partire dalla base italiana di Sigonella e lo vogliamo far arrivare fino in Afghanistan, dobbiamo far sì che la nostra atmosfera sia resa elettroconduttiva, e questo lo si ottiene tramite la dispersione di nanoparticolato metallico, quale per esempio il trimetilalluminio, che è quello che poi genera la nuvola, la scia a contatto con l'ossigeno, che è lo stesso comburente che viene usato nella missilistica, e il bario, che è un altro metallo elettroconduttivo specificamente adottato nell'ambito del progetto RFMP, ovvero della mappatura tridimensionale del territorio, che ormai è d'uopo, è tipica tecnologia impiantata, diciamo così, adottata da tutti gli AWACS che controllano la situazione in bassa ed alta atmosfera, e da tutti i velivoli e le basi a terra che adottano tema di mappatura del territorio in tridimensionale. Cioè, praticamente, per semplificare un attimino per i nostri amici ascoltatori, questi aerei, diciamo, senza pilota, giusto? Hanno bisogno nell'atmosfera di queste molecole, di queste parti ferrose per poter andare avanti, per poter vedere. E quindi, faccio un esempio banale: se ecco, tu prendi un modellino di aereo anche, sì, di elevato costo, con la sua trasmittente e compagnia bella, il raggio massimo può essere 2, 3, 10 km. Se hai chiaramente una telecamera a bordo e quindi puoi pilotarlo, sì, diciamo, gestendo le immagini da bordo. È chiaro che oltre un limite la trasmittente non arriva, quindi tu perdi il segnale e perdi anche il velivolo. Questi velivoli, la tecnologia è già in uso dagli anni 70, sono controllati da satellite, vengono programmati, quindi vengono aiutati al decollo, e poi hanno una programmazione a livello di computer per poter eseguire la missione anche di bombardamento, non solo di controllo del territorio, e questo chiaramente attraverso i satelliti può essere ottenuto solamente se si crea uno strato, un layer di atmosfera simile alla ionosfera, La ionosfera noi sappiamo che viene usata fin dall'inizio delle trasmissioni radio come medium di trasferimento dei segnali radio, in quanto le sue caratteristiche sono quelle di riflettere molto bene le trasmissioni. Chiaramente affinché la bassa atmosfera e l'alta atmosfera possano essere utilizzate con lo stesso sistema che si ottiene attraverso la naturale condizione della ionosfera, allora si disperdono quelle che noi vediamo scie, che però delle volte creano delle velature, queste innocue velature dei servizi meteo, velature elettroconduttive composte da nanoparticolato PM1 e PM2 estremamente neurotossico. Aspetta, scusami un attimo, Rosario. Medium si crea una situazione facile per le trasmissioni radar satellitari e per l'uso dei droni. Cioè, scusami, semplifico brevemente perché sai, tu giustamente usi termini scientifici, ma io volevo giusto spiegare per chi non capisce come. All'inizio neanche io non sapevo queste cose, sono andato a leggerle. Praticamente la ionosfera è, insomma, questi termini sono la distanza che c'è tra noi e le nuvole, giusto? Allora, la ionosfera è uno strato di atmosfera che si trova in alta quota, sì. Diciamo è la parte estrema della nostra atmosfera e ha la caratteristica di riflettere i segnali radio, quindi se noi emettiamo un segnale radio, una comunicazione radio di qualsiasi tipo, che ne so, da New York, possiamo arrivare tranquillamente a Parigi o a Roma o dove vogliamo, o a Mosca, sfruttando la ionosfera come uno specchio parabolico che riflette i segnali oltre la curvatura terrestre. E fino qui, cioè noi abbiamo anche... ci siamo. Abbiamo degli esempi... Quando noi disperdiamo, osserviamo bene, teniamo conto che queste scie che noi vediamo sono le scie emesse, prodotte da aerei militari e civili a bassa quota, aerei di linea non possiamo vederli come non li vedevamo 10 anni fa, non è che adesso abbiamo acuito la vista e riusciamo a vedere gli aerei di linea che prima non si vedevano. Queste scie sono riprodotte a bassa quota, quindi a non più di 2000 metri, che è la quota in cui stanziano i cumuli che vengono distrutti, distolti, proprio perché questo nanoparticolato è igroscopico, cioè asciuga l'umidità atmosferica. Rosario, ma se allora mettiamola da questo punto di vista, se io e te siamo seduti al bar, che ci prendiamo un caffè all'aperto, succede che passa uno di questi aerei con queste scie, cosa succede a noi? Beh, nell'immediato tu osserverai la scia, osserverai l'aereo, potrai vedere i motori, potrai distinguere bene che modello è, quindi è chiaro che, a meno che non sei Superman, è un aereo che vola a bassa quota. Okay. Ma dopo, nell'arco delle 36-48 ore, il particolato ricade al suolo sotto forma di nebbia. Spesso avrai fatto caso che negli ultimi 10 anni non ci sono più incidenti per tamponamenti sull'autostrada del sole per nebbia. Perché le nebbie, quelle vere, quelle che si alzavano alla mattina presto, tra le 6 e le 8 e mezza, alle 9 di mattina, non ci sono più. Adesso invece ci sono le nebbie di ricaduta, cioè il particolato, una volta che rimane in atmosfera quelle 36-48 ore, ricade al suolo e viene respirato, ricade sull'acqua, ricade sul terreno, tant'è che le analisi eseguite sul terreno, nell'acqua piovana, le piante dimostrano un aumento incredibile proprio di questi metalli killer che vengono usati nelle operazioni di aerosol. Il bario e il titanio. Anzi, avrai fatto caso che spesso gli acquedotti di alcune città vengono chiusi proprio perché si superano i livelli, guarda caso, di alluminio, bario e manganese. Il manganese viene disperso in atmosfera per dare al cielo una certa colorazione azzurra, perché purtroppo per loro la dispersione di zolfo, che è il risultato della combustione di questi aerei a bassa quota, e di metalli come l'alluminio e il bario rendono il cielo bianco. Dunque, noi cos'è che possiamo fare a questo punto? Perché la situazione sembra abbastanza tragica e drammatica. Niente, ci tocca subire noi passivamente. Dobbiamo fare il lavoro che non fanno i mezzi pubblici di informazione. Cioè, noi per esempio siamo obbligati a pagare il canone per un cosiddetto servizio pubblico che non fa informazione ma fa disinformazione. Quindi dobbiamo informare la popolazione attraverso i sistemi e i medium quali, per esempio, come nel caso vostro, le radio, è attraverso il volantinaggio, con l'informazione tramite la rete, con le conferenze. Bisogna arrivare a un punto tale che la gente non scenderà più in piazza per il telefonino, ma scenderà in piazza perché sta morendo a causa della geoingegneria clandestina. Ci dai un tuo indirizzo internet? Adesso abbiamo fatto una bella panoramica, poi chi magari vuole più informazioni sul tuo sito internet troverà aggiornamenti e situazioni anche più dettagliate. Perfetto, allora guarda, intanto segnalo in maniera aggiuntiva il link del nostro blog meteo che abbiamo aperto a settembre dell'anno scorso, sì, è tankerenemymeteo.blogspot.it, e sul quale abbiamo fatto previsioni anche importanti. Per esempio l'anno scorso siamo stati gli unici con 3 giorni di anticipo ad anticipare le alluvioni nelle Cinque Terre e a Genova, mentre quest'anno con un anticipo di 10 giorni e oltre abbiamo previsto le alluvioni in Toscana, le situazioni di bombe d'acqua in Toscana che ci sono state l'altra notte. Sì. Tra l'altro troveremo nell'articolo che dovrò pubblicare anche una relazione sul tornado F2, quindi non una tromba d'aria ma un tornado, quindi questa non è zona di tornado, un sì, tornado F2 che si è scaricato su Taranto, e abbiamo delle immagini di radar Doppler che dimostrano che questa situazione non è affatto stata normale. Quelle che mai passato ieri sera, giusto? Sì, esatto. E poi invece il nostro blog principale è www.tankerenemy.com, mentre abbiamo anche il canale video su YouTube che è Tanker Enemy, e un canale video dedicato su server, diciamo, non sottoposto a censura, che è sul nostro dominio, è tanker-enemy.tv. Perfetto. Grazie. Noi ti ringraziamo tantissimo per la tua disponibilità. Poi magari ci aggiorniamo anche più avanti per vedere se ci sono altre situazioni da segnalare. Volentieri, siamo a disposizione. Grazie mille. Rosario, grazie mille. Speriamo di riaggiornarci, insomma. Grazie, tu tieni aggiornati chi insomma, le persone che vogliono sapere tutto qua. Volentieri. Grazie Rosario, buon ciao, lavoro. Ciao. Grazie, buon lavoro. Andiamo con prima di iniziare con velocissimo sta cosa. Volevo solo dire per l'intervento di prima, Marciano, che ringrazio di nuovo. Ragazzi, io non voglio dire a nessuno è vero o non è vero, ognuno è bello perché ha le sue opinioni. Dico solo una cosa, invece che dire è una cazzata come fanno molti banalmente per glissare il discorso, informatevi. C'è tanta roba su internet, quindi informatevi.